musica allo stato puro. Ciao Gigi, sono Serena di Mirafiori Sud. Ho 35 anni ed ero sempre presente ai tempi del Magico Palace di Torino, insieme alla crew di Mirafiori Sud, che saluto tantissimo. Tutti continuano ad ascoltarti. Grazie per i viaggi d'amore che ci hai fatto fare. Prego. Da Senago. Volevo dare un abbraccio a una persona veramente speciale, mio figlio Luca. Sono Davide da Bologna. Sto studiando e mi si appanna la vista. Per fortuna che c'è il folclorista. È vero, è vero. Non giochiamo. Every day I pray, every day I say, matter of fact, I really need you every day. People still gon' talk, some me be pumped, but don't worry, girl, I'm really gonna drop. When the sun is down, when the moon's gon' shine, girl, I really wanna be with ya. Every hour, every minute, every day, every year, come on, girl, please stay with me. Things go on around with me, talk with me, freak with me. She wanna be my Cinderella, my señorita. In the hot, up and down, she's a witch. I wanna test if it's true that she really that my beat. I heard a lot about her, that she make it grow me silly. Yo, don't chill it, just cry. Call me Billy, come on. Non mi interessa sentirmi intelligente guardando in TV dei cretini. Preferirei sentirmi un cretino di fronte a persone eccellenti. Franco Battiato. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as as you stand, stand by me. Il 3 novembre 1801 nasce Vincenzo Bellini, compositore italiano. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Appuntamento calabrese. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 11 novembre al Papito Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza. Ci vediamo lì. Il 3 novembre 1560 nasce Annibale Carracci, pittore italiano. Il cammino di Gigi D'Agostino. I don't wanna be alone tonight. M2O, musica allo stato puro. Sono Pino da Torino. Puoi fare un saluto alla mia nipotina Martina? È nata questa notte. Ma ciao proprio. Volete mandare i vostri sms? Il numero è il seguente: 333-64-67-662. Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Austria. Domani sera, sabato 4 novembre, discoteca Nakshit Donauplex, Vienna. Ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. La vita è più bella quando suona la campanella. A colpi di machete si esce dalla giungla.

quel che veste il mattino spoglia la sera. Apostolo Zeno. Ciao, sono in auto con mio marito e non ci crederai, ma la nostra canzone è Summer of Energy. Fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte, riprendiamo il nostro cammino. Vorrei dedicare Per me amore alla persona che ha dato un senso alla mia vita in questi 3 anni.

M2O, musica allo stato puro, da ripide sicuro. Novembre 1911, la Chevrolet entra ufficialmente nel mercato dell'automobile. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni.